already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Madam Speaker, when was the last time anyone ever asked you for $700 billion? It's a staggering figure. And many questions have arisen from that request. And we have been hearing, I think, a very informed debate on all sides of, of this issue here today. I'm proud of the debate. $700 billion, a staggering number, but only a part of the cost of the failed Bush economic policies to our country. Solo una parte del fallimento economico dell'amministrazione Bush, così disse Nancy Pelosi in un discorso che è già storia, forse storia in negativo, della politica americana degli ultimi tempi, allorché poco dopo il voto avrebbe respinto questo finanziamento, dando il via alla giornata, a una delle giornate più drammatiche dell'economia americana, che oggi poi sta riaggiornando i suoi indici con le notizie del salto in positivo prodotto dalla borsa all'apertura. Ma tante sono le cose che vanno insieme in queste ore, talmente tante che è difficile districarsi. Leggiamo sugli schermi di Fox News: i principali legislatori lasciano Washington dopo che il piano di finanziamento è stato respinto, hanno finito il loro compito, almeno per quanto li riguarda in questo momento, e se ne vanno a casa. Ma non è esattamente quello che pensa il presidente Bush, che si è rivolto nuovamente, ora antelucana, agli americani, contravvenendo insomma la regola della Casa Bianca. È tornato a parlare, è tornato a dire che la bocciatura alle Camere non significa la fine del processo legislativo sul piano del salvataggio, ha continuato a dire il Congresso deve agire, che c'è bisogno, perché l'economia si trova in un momento critico. Ci sono i giornali che titolano in modi variamente fantasiosi, ma comunque usando parole grosse. Il New York Times pubblica un editoriale di Bob Herbert che dice quando i pazzi regnano, oppure il Chicago Tribune che va a firma di David Byrne dice un fallimento nel convincere il popolo americano. L'anatomia di queste giornate richiederà studi e ragionamenti ben più ampi di questi notiziari che cerchiamo di darvi, ma noi più che altro, tanto più dall'osservatorio così sociopolitico, insomma di costume, che teniamo giornalmente qua a Jefferson Ming, proviamo anche a capire veramente che aria tira. E prima di chiamare in causa Mario Platero, il corrispondente del Sole da New York, per sentire i suoi punti di vista e gli ultimi aggiornamenti, ci viene a dire una cosa su cui vorremmo proprio aprire con Mario. In realtà la temperatura emotiva oggi dei giornali italiani, degli editoriali pubblicati da molti giornali italiani, è nonostante tutto più apocalittica, addirittura più amara di quella che si legge pure nel nervosismo della stampa statunitense. In Italia insomma si annunciano malatempora in arrivo anche qua, nulla e nessuno si salverà. L'esempio americano di disdetta è qualcosa col quale dobbiamo imparare a fare i conti, ma c'è anche questo senso così del consueto, no? Della consueta sensazione di impotenza che tanto spesso aderisce all'Europa, dove un presidente non si alza alle 8:30 di mattina per dire damoce da fa, come si dice a Roma. Mario, che cosa ne dici di questo fatto? Che da qua ormai si cominciano a vedere le cose più nere che da là, almeno mi sembrerebbe. Ma guarda, credo che le cose le si vedano nere un po' dappertutto nel mondo, non soltanto in Europa, ma anche in America, al di là dello stile. Forse noi abbiamo la tendenza e l'abitudine a essere più sensazionalisti e quindi riportiamo le stesse cose con toni molto più marcati, ma il senso di sgomento che c'è in America oggi direi è fortissimo, un senso di sgomento per il fallimento delle istituzioni. E sottolineo questo punto perché non è concepibile, pensabile che una potenza solida, seria, come gli Stati Uniti d'America abbia due cadute, perché ricordiamo che giovedì ci fu un incontro alla Casa Bianca, certo, in cui la leadership democratica, in cui due candidati presidenziali, Barack Obama e John McCain, furono convocati dal presidente Bush con la leadership repubblicana, con Paulson, con Bernanke, e tutti insieme dovevano, diciamo, trovare l'accordo bipartisan sotto l'ala della Casa Bianca. E invece quell'incontro, che sembrava già preparato, si è aperto con l'annuncio del senatore dell'Alabama, il quale ha detto: ma noi veramente non siamo pronti ad andare avanti, ed è crollato tutto e si è dovuto riprendere il filo del negoziato, riaprire il dialogo, lavorare tutto il fine settimana, fino a che domenica all'ultima ora Nancy Pelosi ha fatto l'annuncio del famoso compromesso. Un compromesso blindato, un compromesso che avrebbe poi trovato il suo contrappunto nel voto lunedì. Ecco, questo per dirti che il percorso che ci ha portato al fallimento di lunedì è un percorso complesso, è un percorso che ha richiesto negoziati, che ha impegnato la parola e la credibilità di istituzioni come la Casa Bianca e la Presidenza della Camera, e il fatto che poi alla prova del voto ci sia stato questo catastrofico risultato, catastrofico perché abbiamo visto poi quali sono state le conseguenze in borsa, beh, devo dire, preoccupa. L'unico elemento, direi, che ci porta uno spiraglio di luce è che giovedì si dovrebbe riprovare, si dovrebbero rimettere le cose a posto, e poi dunque l'America alla fine, pur con la sofferenza del caso, probabilmente riuscirà a consegnare la promessa che ha fatto ai suoi cittadini e al mondo intero. Ecco, resta questa spaccatura ancora tra Wall Street e Main Street, tra i residenti delle campagne, dei piccoli paesi americani, così arrabbiati. Ecco Mario, però resta anche questa spaccatura, se me la passi, tra politica ed economia, insomma, il gioco di dispetti, di ripicche, di posizionamenti, insomma, che avrebbe seguito il discorso che abbiamo ascoltato in apertura di Nancy Pelosi, e dicono alcuni repubblicani del congresso, avrebbe causato, ma insomma è da soppesare questa affermazione, il voto negativo. E tanto più poi vorrei agganciarmi anche a questa questione dei candidati, ma com'è possibile che due candidati siano diventati in una settimana poco più di due fantasmi? Insomma, in questa crisi non riescono a riguadagnare, non dico una credibilità, ma insomma un peso specifico degno dei futuri inquilini, insomma, della Casa Bianca. Hai assolutamente ragione, appunto, alla fine, ieri, al di là di quello che potrà succedere giovedì, ci si è resi conto che c'è una totale assenza di leadership in questo paese. Certo. C'è la leadership della Casa Bianca, che ha avuto 133 dei deputati repubblicani che hanno votato contro il loro presidente, di fatto. Certo. Abbiamo avuto 95 democratici che hanno votato contro Nancy Pelosi e dunque contro il partito. Abbiamo avuto Barack Obama e John McCain così lontani, defilati, striscianti lungo il muro della campagna elettorale per non toccare questo tasto dolorosissimo del piano. Perché? Perché la paura, il timore è che poi possa avere un rimbalzo negativo. Ecco, forse, e qui lo dico con sincerità, forse bisognava passare attraverso la prova del fuoco di questa straordinaria perdita in borsa, una perdita che ha toccato i piani di pensionamento poi di tutta l'America, quindi anche dell'agricoltore irritato, anche del cittadino del piccolo paesino, della classe medio-bassa americana che pensa di non essere collegata a Wall Street, ma che poi vede i suoi risparmi svanire, le banche che rischiano di fallire, quindi i depositi che rischiano di andarsene, l'economia che rischia di non funzionare. Ecco, con lo spavento di ieri in borsa, forse anche coloro che pensavano con una certa arroganza, con una certa ignoranza, consentimi il termine, certo, che la finanza fosse slegata dall'economia reale, l'economia finanziaria e l'economia reale non avessero nulla a che fare, forse si rendono conto che poi non era così. Forse bisognava passare attraverso queste forche caudine per poi trovare la forza di quei politici che, non dimentichiamolo, a novembre dovranno essere rieletti. Questi, noi abbiamo sempre parlato di presidenziale, ma queste sono elezioni del Congresso. Tutta la Camera sarà rieletta a novembre, un terzo del Senato sarà rieletto a novembre, e dunque una gran parte di questi deputati che si trovano già in difficoltà nei loro distretti elettorali sapevano che se avessero approvato così in modo piatto questo piano, e quindi un interesse privato, se volete, contro quello della nazione, rischiavano di perdere le elezioni a novembre. Probabilmente le perderanno lo stesso, però in queste situazioni la politica piccola, piccina, l'interesse personale alla fine prevale. Così sì, non anche a caso. In America, speriamo che giovedì se ne esca fuori. Non a caso in queste ultime ore, insomma, leggendo un po' i giornali, guardando le televisioni americane, i veri eroi, quelli che ne escono bene, sono personaggi come Warren Buffett, addirittura come Donald Trump, a cui ho sentito fare una intervista veramente da Maverick, se ce n'è uno, in cui con grande ottimismo ha detto sì, che in realtà il disordine, il caos è totale sotto il cielo della finanza americana, ma così facendo il prezzo del petrolio crollerà, e quando il prezzo del petrolio crollerà gli americani potranno accedere a questo consumo secondo il vecchio stile, vedrete che tutto ripartirà. Insomma, sembrano più personaggi di questo genere che i leader di riferimento a fare. Sì, no, direi certamente, con ovviamente con pesi specifici diversi, certo. Perché Warren Buffett ha investito in Goldman Sachs la settimana scorsa una grossa parte del suo capitale, 5 miliardi di dollari, più forte altri 5, ha dato un messaggio di fiducia alla borsa, ha già in questo momento subito una forte perdita purtroppo per lui per questo suo investimento, ma resta un personaggio solido con una visione ben chiara. Quando Trump dice che tutto sommato cade il prezzo del petrolio, beh, sappiamo perché cade il prezzo del petrolio, perché si pensa che l'economia americana andrà in forte recessione, che ci saranno milioni di disoccupati, certo, che non ci saranno aziende in grado di fare profitti, e che quindi è semplicemente una reazione del consumo, per cui direi che non necessariamente dobbiamo rallegrarci di questo fatto della caduta del prezzo del petrolio, come dice Donald Trump, perché la giustificazione è una giustificazione pessimistica sull'economia. Però ecco, tornando a quello che si diceva prima, resta un'atmosfera in cui dopo la caduta di Wall Street abbiamo in qualche modo assistito alla caduta di Washington, ecco. Certo. Il fallimento sistemico che tutti temevano nella finanza e nell'economia lo abbiamo prima avuto di nuovo nella politica. A questo punto si tratta di rimediare. Quando tu prima dicevi che una gran parte di deputati se ne erano andati, avevano lasciato la capitale, beh sì, è vero, però molti sono andati perché oggi c'è la festa ebraica del Capodanno. Certo. E quindi ci sono molti deputati di religione ebraica che avevano già l'impegno personale di tornare a celebrare questa festa. Ecco, questo anche porta, se vuoi, un minimo così di critica, perché questa è una situazione di vera emergenza, è una situazione in cui indipendentemente dalle feste bisognerebbe occuparsi del paese che brucia, perché i soldati in Iraq non hanno né Natale né Capodanno, certo, né Rosh Hashanah, certo, né Yom Kippur, e perché i parlamentari chiamati alla loro responsabilità, una responsabilità su cui poi hanno fallito, beh, allora dovrebbero stare a Washington fino a quando la questione non si risolve, perché ogni giorno che passa è un giorno pericoloso. Ecco, oggi, perché Bush vitale, quindi... Mario, perché Bush è tornato, secondo te, oggi a rifare in realtà l'appello che ormai ripete quasi ossessivamente? Perché il presidente si è sentito in dovere di ripronunciarlo, proprio per il motivo che dici tu, che non c'è un minuto da perdere? Perché non c'è un minuto da perdere. Io ti dirò che mi aspettavo che forse Bush potesse davvero convocare il congresso d'emergenza, potesse davvero dire ai deputati di tornare a Washington e di mettersi al lavoro. Non l'ha fatto, forse per sensibilità così, diciamo, così, sensibilità religiose, però la verità è che il presidente cerca di abbassare i toni, è stato il suo un intervento molto pacato, non ha puntato l'indice accusatore su nessuno, ha cercato di far rientrare nei ranghi un po' tutti, le grandi emotività della giornata di ieri, che abbiamo seguito questa cosa in diretta televisiva, e devo dire è stata una cosa alquanto affascinante, allo stesso tempo preoccupante, e come tu dicevi, purtroppo la temperatura, gli umori si sono così riscaldati quando Nancy Pelosi ha pronunciato questo discorso quando ha commesso questo errore madornale di fare un discorso nel momento in cui convocava l'assemblea provocatorio, accusando l'amministrazione, i repubblicani di aver prodotto questa situazione, quando lo spirito doveva essere bipartitico, bipartisan, in nome del paese, dell'unità del paese, e non per tirare i sassi addosso agli altri. Certo. C'è chi dice che la Pelosi abbia fatto questo per delle specifiche ragioni politiche, e cioè per dare un messaggio a quei democratici che alla fine si erano impegnati a votare con lei e che altrimenti non avrebbero votato. Qualcuno dice che è stato un prezzo che lei ha dovuto pagare per ottenere quella manciata di voti che lei stessa aveva promesso che avrebbe avuto e che poi in effetti ha consegnato, al di là dei 95 che hanno votato contro. La verità è che è stata una brutta uscita, una brutta pagina per la leadership, una brutta pagina per Nancy Pelosi. Mario, per concludere, per noi profani, insomma, qui dell'area Jefferson Ming, che significa questa apertura così positiva dei listini? Come va letta, a fronte del fatto che poi dalla parte dei provvedimenti per ora non è successo nulla? Ma intanto, dopo una perdita di 777 punti, dopo la perdita più forte della storia americana in termini assoluti, quasi il 7% in termini percentuali Dow Jones, l'8% e passa per lo Standard & Poor's, dopo una giornata così è normale che ci siano degli interventi di realizzi, la gente compra. L'indice ieri è andato su e giù in modo impressionante, a un certo punto era meno 600 quando si votava e si capiva che forse il voto sarebbe stato negativo, poi è risalito. E infatti sempre il buon 300, Donald Trump nell'intervista che ho ascoltato diceva: se avete soldi muovetevi, era molto elettrizzato, non so come dire. Scusa, ho perso il nome, chi era che l'ha detto? Sempre il buon Donald Trump nella sua intervista diceva: avete quattro soldi, muovetevi, che state a fare a casa, andate a comprare. Beh sì, direi ci sono quelli che hanno la visione di lungo periodo, con certi prezzi ai livelli in cui sono adesso può valer la pena di entrare sul mercato senza fare leverage e lasciando i soldi lì nel giro di 2-3 anni, probabilmente tutto si rimetterà a posto. Il problema è che quando tu hai perdite come quelle di ieri non sai se avrai perdite di un altro 8, 10, 20, 30% e quindi la gente è prudente, non c'è liquidità, tutti stanno fermi, è come se ci fosse un po' una paralisi. Ecco, questo blocco psicologico è il più serio, il più grave, e ti dirò, non è detto che neanche questo pacchetto di 700 miliardi una volta passato riuscirà a restituire, a dare questa iniezione di fiducia di cui gli americani, di cui i consumatori, gli investitori hanno bisogno, perché c'è una crisi di liquidità e per quanto tu porta poi liquidità al sistema, come dice il vecchio proverbio, puoi portare il cavallo alla fonte, ma se non vuole bere non c'è niente da fare. Senti, sono arrivati un sacco di messaggi, io almeno uno te lo giro, perché poi è uno di quelli basici, ma insomma essenziali, ti rubo ancora un minuto. Ci scrive Maurizio e ci dice: chi ci guadagna da questa situazione di crisi globale, aggiunge lui? Beh, ci guadagnano quelli che sono oggi in una posizione liquida, ci guadagnano quelli che hanno speculato o investito contro, diciamo nella direzione in cui poi il mercato si è mosso, e quindi i ribassisti ci guadagnano. Sentivo ieri un operatore, quelli che hanno comprato credit default swap, che sono crollati improvvisamente, che riescono a prendere in portafoglio dei buoni titoli, ci guadagnano quelli che hanno il coraggio di entrare, forse ci guadagneranno. E in ultima analisi, chissà, forse ci guadagnerà anche il governo americano, perché l'idea è che comprando questi titoli a prezzi stracciati, a 20 centesimi sul dollaro per ripulire i bilanci delle banche, dentro questa massa di titoli ci sono anche delle cose molto buone. E chissà che fra 2 anni non potranno rivenderli a 70, 80, 60, facendo poi un guadagno. Questo è quello che spera Polso. Grazie molto a Mario Platero da New York, ci ha dato il polso della situazione in questa mattinata americana, di un'altra giornata di cui è tutto da vedere se gli sviluppi saranno altrettanto drammatici di quella di ieri, anche perché poi naturalmente parallela a questa storia continua a correre la vicenda elettorale che, come dicevamo prima, si sta come sfocando, no? Sta diventando una specie di pandan, di companatico, insomma, nel momento in cui invece dovrebbe raggiungere la massima concentrazione, la messa a fuoco dovrebbe essere più chiara. Basti dire che fra due soli giorni nel Missouri, a St. Louis, si terrà il secondo dibattito, dopo che il primo, a rivederlo oggi con gli occhi di quanto appena detto, forse è stato veramente lontano, o troppo lontano comunque dalla realtà americana del presente e della leadership per quello che si deve proporre di fare e di immettere nei suoi compiti primari. Si troveranno Joe Biden e Sarah Palin per discutere da vicepresidenti, ma soprattutto per contrapporre due visioni così diverse, così criticamente ormai avviate, no? Tracimanti in direzioni del tutto contrapposte, eppure tutto ciò sembra improvvisamente meno colorito, meno colorato, meno illuminato di quanto è sembrato per mesi. Ma di tutto questo ci occuperemo dopo aver preso un po' di fiato, e invece dopo aver dato fiato a Bob Dylan. Eccolo qua. Step of the way, we walk the line. Your days are numbered, so are mine. Time is piling up, we struggle and we scrape. All boxed in, nowhere to escape. City's just a jungle, more games to play. We're trapped in the heart of it, trying to get away. I was raised in the country, been working in the town. Been in trouble since I set my suitcase down. Ain't got nothing for you, had nothing before. Don't even have anything for myself anymore. Sky's full of fire, pain is pouring down. There's nothing you can sell me. I'll see you around. My powers of expression and thoughts so sublime, they'd never do you justice in reason or rhyme. Only one thing I did wrong, stayed in Mississippi a day too long. Le elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. E dunque, dicevamo poco fa, verso l'obiettivo 4 novembre, naturalmente convergono John McCain e Barack Obama, ma convergono altresì, ormai inevitabilmente legati, no? Con un doppio filo anche Joe Biden e Sarah Palin, i loro vice, che fra due giorni, nella sera di giovedì, nella notte tra giovedì e venerdì per noi dall'Italia, ma naturalmente in diretta su tante televisioni che possono essere ricevute con una parabola, si terrà il dibattito dei vice, che è tradizionalmente il dibattito più divertente, quello in cui capitano anche cose un po' più bizzarre, in cui si parla un po' più chiaro, in cui si attacca un po' più duro, in cui si cerca di dare un'immagine più forte al proprio capo. Tanto comunque a parlare è il vice. Ricordiamo ad esempio il dibattito eccellente che si tenne tra Cheney e John Edwards nella elezione del 2004, dove peraltro John Edwards fece anche un'ottima figura, ma non riuscì comunque a migliorare la posizione del suo capo ufficio. Che cosa succederà tra Joe Biden e Sarah Palin? Ma in realtà di Joe Biden i democratici temono soprattutto, come dire, lo spiritello arzillo, quello che gli potrebbe far partire da un momento all'altro cose un po' inaudite, magari facendolo avventurare su strade della memoria non perfettamente lubrificate, quindi facendogli insomma tirare dentro qualche sfondone che poi verrebbe martirizzato, no, dai media e con tutto quello che ne segue. Ma è attorno a Sarah Palin che in questo momento di estrema difficoltà dell'America naturalmente si raccolgono più i punti interrogativi degli osservatori e degli specialisti. C'è oggi sul sito di CNN una bella intervista con Fareed Zakaria, che è l'editorialista più importante, uno dei più importanti di Newsweek, il settimanale americano, che stende veramente una specie di atto d'accusa contro la scelta del candidato McCain di Sarah Palin come vice president, come vicepresidente. Dice: è stata una decisione fondamentalmente irresponsabile, nel titolo dell'intervista, e spiega di essere stato sorpreso così quando ha saputo il nome all'inizio, di aver deciso anche di dare una chance a Sarah Palin, di aver visto il suo debutto a St. Paul alla convention, di essere rimasto discretamente impressionato. Ma poi, quando sono arrivate le prime interviste di Sarah su questioni economiche, su questioni di politica estera, invece sono stati i brividi a attraversare la sua schiena. Colpa di tutto ciò va data anche a una intervista realizzata pochi giorni or sono, 2 o 3 giorni or sono, da Sarah Palin con Katie Couric, che poi è la anchorwoman di punta della CBS. Adesso poi, se mi trovo il foglietto della traduzione, vi potrò dare anche atto di tutto ciò. Ma eccola qua, benissimo, perché abbiamo un estratto della intervista di Katie Couric con Sarah Palin, un estratto che riguarda Israele e che dà un po' la sensazione di questo sbigottimento che ha colto molti addetti ai lavori di fronte al tipo di posizione, alla qualità della posizione di Sarah Palin, che facendo le corna un presidente 72enne, un giorno o l'altro potrebbe essere chiamata, magari anche solo per pochi giorni, a prenderne il posto. Ecco allora Katie Couric, CBS, intervista a Sarah Palin. Si parla di Israele, c'è Katie Couric che chiede a Sarah Palin: lei recentemente ha detto che, cito testualmente, dice la Couric, non avrebbe ripensamenti su Israele nel caso attaccasse l'Iran. Perché? We shouldn't second guess Israel. Palin risponde: non bisogna avere ripensamenti su Israele e sui suoi sforzi per la sicurezza, perché non possiamo permetterci di mandare un messaggio che potrebbe contemplare un secondo olocausto. Tanto per cominciare, Israele deve avere l'opportunità e la capacità di difendersi, è il nostro principale alleato in Medio Oriente, abbiamo bisogno di Israele e Israele ha bisogno di noi, e noi non dovremmo avere ripensamenti sui loro sforzi. Questa è la Couric che dice: lei non pensa che gli Stati Uniti d'America avrebbero il diritto di esprimere la propria posizione a Israele, anche nel caso che questa contempli perfino un ripensamento o comunque la discussione su una opzione? La Palin risponde: no, noi dobbiamo poter esprimere i nostri diritti, le nostre preoccupazioni. Couric interviene: lei ha detto mai un ripensamento. La Palin è in difficoltà e va avanti: noi non dobbiamo avere ripensamenti sui loro sforzi nel caso che loro siano convinti che il loro paese, i loro alleati, noi compresi, si abbia tutti il comune interesse di combattere contro un regime, l'Iran in particolare, che cerca di spazzarli via dalla faccia della terra. Per me è chiaro che ci siano i buoni e che ci siano i cattivi. I cattivi sono quelli che dicono che Israele è un cadavere puzzolente che dovrebbe essere spazzato via dalla faccia della terra. Un buono non direbbe mai una cosa del genere, perciò chi cerca di proteggere i buoni, ovvero i capi di Israele, i loro amici e i loro alleati, compresi gli Stati Uniti, ecco chi è il buono. E questo è il mondo dei buoni e dei cattivi, espresso da Sarah Palin a Katie Couric. Naturalmente c'è del vero, c'è anche del rispettabile nelle posizioni della Palin, ma se un futuro vicepresidente degli Stati Uniti si esprime in una intervista su una rete nazionale a una anchor woman di primo piano come Katie Couric in questi termini, è naturale che le arrivi in faccia una carriola di cattiva stampa, che è esattamente ciò che sta accadendo in queste ore. Adesso comunque si comincia l'avvicinamento al debate, al dibattito dei vicepresidenti, insomma l'atmosfera anche qui è nervosetta, ma staremo a vedere che cosa ne segue. Prima pagina. E veniamo alle notizie che giungono dalla Cina. Intanto, Stefano, visto che hai citato Zakaria al Newsweek, c'è anche un'intervista dello stesso Zakaria a Wen Jiabao, quindi insomma premier cinese, loro possono, grande intervista lunga, dettagliata, forse ne daremo anche conto nei prossimi giorni. Poi, mentre la Cina credo non sia assolutamente indifferente alla crisi che avviene in America, visto gli incroci economici, finanziari, tanti soldi che dalla Cina vanno verso Washington, i cinesi stanno facendo i conti con questa crisi interna del latte contaminato, e come sempre la giustizia cinese va via molto spedita, a volte anche in maniera un po' troppo impietosa. Comunque sono già state formalizzate le accuse, 27 persone sono state incriminate nel nord della Cina per lo scandalo del latte contaminato alla melamina, lo si viene a sapere oggi da tutti gli organi di informazione cinesi. Ricordo 4 bambini morti e almeno 50.000 comunque intossicati da questo problema. Complessivamente sono 36 le persone interrogate dalla polizia nel corso dell'inchiesta partita una dozzina, 14-15 giorni fa, un paio di settimane fa. Cambiamo completamente argomento, perché a Pechino si torna a fare i conti con il traffico. C'era stata questa riuscitissima iniziativa delle targhe alterne durante il periodo olimpico che aveva dato i suoi frutti. Poi avevamo parlato di una foto che il China Daily aveva messo in prima pagina con il nuovo caos, le nuove file interminabili, il nuovo inquinamento, il giorno successivo la fine delle targhe alterne. Cioè, business as usual. Un po' tutti uguali, insomma, ad ogni latitudine, ad ogni longitudine. Ebbene, il governo di Pechino, il governo comunale, ha annunciato nuove restrizioni per proteggere la qualità dell'aria così faticosamente conquistata nei due mesi delle Olimpiadi, e così dall'11 ottobre entrerà in vigore un nuovo sistema sperimentale di circolazione a targhe alterne all'interno appunto delle strade del Quinto Anello, cioè il centro della città, della metropoli. Praticamente le automobili private che hanno la targa che finisce in 1 e 6 non potranno circolare il lunedì, il 2 e il 7 il martedì, e così a seguire per i giorni della settimana, escluso il weekend dove si potrà circolare liberamente. C'è già qualcuno che è intervistato dai giornali locali, dice: mi toccherà comprare una seconda auto con una targa diversa per sfuggire alle restrizioni che si preannunciano, insomma, dolorose per molti cinesi. Tra l'altro il sito internet di Sina.com, che è il più importante di Cina, è stato invaso da mail, blog di protesta dei cinesi che non vogliono queste restrizioni, anche se credo che alla fine facciano bene all'area di Pechino. L'ultima notizia riguarda un altro problema purtroppo cronico della Cina, che è quello della censura. Ieri abbiamo accennato di pressioni per una serie di giornali che avrebbero voluto già a luglio dare conto e dare notizia del latte contaminato, poi le autorità hanno fermato tutto, hanno messo il tappo almeno fino a che erano in corso le Olimpiadi. Ebbene, oggi è Reporter Senza Frontiere che torna sull'argomento e ci dà notizia addirittura di un bando, di una censura per 3 mesi ad un settimanale economico che si chiama il China Business Post, un giornale che viene dalla regione settentrionale della Mongolia interna, perché aveva pubblicato una violentissima inchiesta contro la banca agricola cinese che si trova invece nello Yunnan. Quindi la critica, l'ufficialità di questa censura è addirittura paradossale, perché si fa riferimento a un regolamento interno che vieta la pubblicazione di inchieste su un evento in province diverse da quelle in cui la testata è pubblicata. Quindi praticamente il giornale della Mongolia interna non può parlare male dello Yunnan, perché si trova dalla parte opposta del paese. Insomma, ci sarebbe molto da dire su questo aspetto. Infine, un'agenzia arrivata da poco dà conto di una posizione assunta dal candidato democratico Barack Obama, un nuovo comunicato emesso dal suo staff per invitare i membri del congresso che torneranno a riunirsi però soltanto giovedì, come ci ha raccontato anche Mario Platero, per approvare il piano finanziario, il famoso piano da 700 miliardi di dollari. Obama afferma nel comunicato che il congresso non dovrebbe ricominciare a discutere da zero, ma prendere come base la medesima legge ieri bocciata. Dati i progressi che abbiamo fatto, dice Obama, credo sia improbabile riuscire se ricominciamo da zero o se riapriamo i negoziati sugli elementi base dell'accordo, ma per passare questo pacchetto dobbiamo fare di più, e il candidato ha una sua proposta tutta da verificare, forse anche un po' angolare, insomma, nel momento che si vive: aumentare il tetto della assicurazione federale per i conti bancari da 100.000 a 250.000 dollari. Il limite attuale risale a 30 anni fa e secondo il candidato va bene per i nuclei familiari ma non per le piccole imprese. Aumentare il tetto, conclude Barack Obama, darebbe supporto alle piccole imprese, renderebbe più sicuro il nostro sistema bancario e aiuterebbe a consolidare la fiducia nel nostro sistema finanziario. Vedremo. Used to cry, used to bow our heads, then wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on. Make the best of what you've left to me. Left to me. Sito di Fox, foxnews.com, apre sul discorso di Bush che si è tenuto questa mattina a Washington. Il titolo naturalmente è piuttosto drammatico: This is not the end, questa non è la fine, una delle frasi pronunciate dal presidente. Poi curiosamente, come capita in questi casi nell'informazione americana, lo spazio principale della home page è dedicata a qualcos'altro che non c'entra proprio niente e che niente potrebbe essere più lontano, no, dall'immaginazione dell'americano comune, della strada, ovvero il fatto che probabilmente su Marte nevica. Vabbè. Come direbbero certi, e con questo, peggio anche. Anche noi ci allontaniamo da Washington, dove l'aria è pesantuccia, prendiamo altre strade, ci rivolgiamo all'universo d'Oriente, ci rivolgiamo alla Cina, ci mettiamo un po' a discutere di architettura e lo facciamo con Massimo Roy, che è un architetto nonché l'amministratore delegato dello studio milanese CMR, che proprio della Cina ha fatto uno dei suoi principali territori di intervento, anzi in particolare di una città, e adesso capiremo quale città e perché, ma prima di tutto lo salutiamo. Benvenuto architetto Roy. Grazie, buon pomeriggio a tutti, anche ai radioascoltatori. Grazie mille. Allora, com'è accaduta questa scelta? Come è accaduto a un certo punto che avete stabilito un rapporto preferenziale con la città di Tianjin e attraverso quali strade si è sviluppato questo rapporto? Diciamo, tutto è nato alla fine del 2002 da una missione economico-politica organizzata da Regione Lombardia e l'Associazione di Imprenditori Lombardi, Asso Lombarda, per andare a fare un impegno nel territorio cinese. Abbiamo fatto un giro di qualche giorno arrivando nella città di Tianjin, che fino all'epoca non avevo mai sentito nominare, e durante una cena in presenza del sindaco della città e il presidente Formigoni sono venuto in contatto con uno degli assessori all'urbanistica, a cui ho spiegato quali erano le nostre attività e che eravamo lì in quanto progettisti della nuova sede della regione e che avevamo sviluppato esperienze nel settore della progettazione degli uffici, e nel giro di qualche giorno fu invitato a realizzare dei concorsi che poi ci hanno portato a sviluppare le nostre attività proprio nella città di Tianjin. Ecco, quindi un architetto milanese che arriva e dopo un po' comincia a lavorare a Tianjin. Ma per esempio, se le chiedessi di farci capire, farci un po' immaginare che tipo di città è una città cinese, non di quelle che si vedono in televisione, ma un'altra, appunto, delle tante che sono disseminate per la Cina, come ce la descriverebbe? Nel 2002 il primo impatto fu estremamente duro. Arrivato a Shanghai, era la prima volta in Cina, mi aspettavo di trovare i cinesi in bicicletta, invece mi sono trovato i grattacieli in un numero impressionante. Certo. Invece Tianjin, che comunque rimane la terza città della Cina per numero di abitanti e anche la città dove è nata l'industria moderna cinese, era nel 2002 ancora una città prettamente utilizzata da persone che lavoravano appunto nelle industrie e che utilizzavano le biciclette per muoversi. Certo. Oggi, a distanza di 6 anni, con le Olimpiadi anche che hanno aiutato nello sviluppo, è mutata tantissimo. È una città che ha 11 milioni di abitanti e che è ricca di strade sopraelevate e anche edifici che si stanno modificando rapidamente. Una dei vostri interventi riguarda un edificio, Italian Exposition Center. Ci spiega che cos'è? Quello è stato forse uno dei primi grandi progetti che abbiamo vinto. Era un concorso internazionale per la realizzazione di una sorta di museo dell'Italian Style all'interno dell'area della concessione italiana, perché Tianjin è famosa in Italia perché era l'area dove negli anni 20 era sorta la concessione italiana, quindi progettata da architetti italiani e realizzata da strutture italiane. All'interno di questo spazio in fase di riqualificazione, il governo della municipalità organizzò un concorso per realizzare questo museo. Noi abbiamo vinto questa competizione e ha portato alla realizzazione di quasi 30.000 metri che a oggi ancora non hanno avuto un'inaugurazione effettiva, perché certo, il nuovo sindaco ha deciso di realizzarne un museo dell'urbanistica, quindi ancora più importante rispetto al ruolo che doveva avere. In che cosa avete prescelto, che cosa avete utilizzato per suppongo per dare insomma un tasso di italianità a questo progetto? Questo è uno dei lavori più difficili, lavorando con il governo cinese a cercare di trasferire certo, che l'Italian style non è lo stile ottocentesco o rinascimentale, ma è un'architettura che si è modificata come si sono modificati gli usi e i costumi, e quindi abbiamo cercato di trasferire questo tipo di concetto anche attraverso una serie di elementi che all'interno dell'edificio hanno trovato spazio e quindi che ripercorressero le caratteristiche delle strade italiane, i carruggi genovesi, le salite e i ponti veneziani, le scalinate romane, e anche nell'uso dei materiali, ovviamente, quanto di meglio il nostro paese può mettere a disposizione: materiali lapidei, e le finiture in legno, i giardini pensili, eccetera. Roy, per concludere, come si lavora in Cina? Come? Su che ritmi? Ci sono dei paragoni possibili, per esempio, con quanto accade qua? Diciamo che l'elemento fondamentale della Cina è la velocità. ce ne siamo accorti tutti anche per le recenti Olimpiadi, la velocità è l'elemento dominante di tutto il mondo attuale. Loro sono in una continua rincorsa, una rincorsa che ha permesso di recuperare magari un tempo perso nel passato, ma che li ha portati ormai a primeggiare in tanti spazi. La velocità legata all'economicità, quindi tutto deve essere finito rapidissimamente a costi ridotti. Hanno il vantaggio che la manodopera ancora le costa molto poco e quindi il mantenere i costi sotto controllo è più facile. Tutto questo però porta a un disagio, quello di correre non sempre permette di portare a dei concetti di qualità, certo, del realizzato, certo, certo. E quindi gli edifici cinesi per la massima parte bisogna osservarli da lontano, anche se le Olimpiadi ha permesso a questi signori di riuscire a capire che anche la qualità paga. E torniamo a dei motivi ricorrenti, insomma, che più volte già abbiamo ascoltato parlando di esperienze di questo genere, cioè del debuttare, del fare l'esperienza per dei professionisti italiani di lavoro in Cina. Era Massimo Roy, architetto, amministratore delegato dello studio milanese Progetto CMR. Una mail che arriva da Andrea, che ci fa sentire anche, come dire, professionalmente in colpa, forse è un'espressione troppo grossa, ma insomma, però ci stimola a lavorare su certe notizie che improvvisamente, come è buon costume, scompaiono. Ci dice: com'è la situazione in Tibet? Non ho sentito più nulla di nuovo su questo tema dall'inizio delle Olimpiadi. Cercheremo di dare al più presto una risposta, se non altro informata. Questo era Jeff Suming di oggi. Io sono Stefano Pistolini, in redazione come di consueto Emiliano Enrico, la parte tecnica a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Pietro Lacorte. La mail per contattarci, anche per darci stimoli di questo genere, Jeff Suming, tradio24.it. La puntata di oggi, come sempre, in replica alle 21, in podcast e quant'altro, ma la diretta è domani alle 4 qui su Radio 24.